Sione si è schernito. Ma cordel, padre svetato! Con indegna son tradito. Non t'ascolto, cuore ingrato, che non vedi di pietà. Son tradito, son tradito, son tradito.